Questa è Lovebot Radio. Mentre leggende corrono lontano, ho vissuto e corso ogni verso di un morso d'amore che mi venne in mostro. Di un cuore che tremava di digiuno lontano e non più mia. Per essere serenata dolce dentro amarezze di un caos di vita, ma per il muso ignorante in ogni verso e nota della mente. Ho vissuto il corso verso un morso d'amore, divenne il mostro di un cuore che t'amava di digiuno. Leggende metropolitane corrono, leggende sfondano tabù, leggende muoiono e nascono, leggende viaggiano e all'unisono, leggende metropolitane nascoste nelle loro tane, sognano furtive e affidano le zanne per il nuovo pane. Leggende sognano glorie, forse per i più incomprensibili. Leggende come sogni impossibili. Chi sei, piccola principessa? Chi sei, dal sapore dolce, onesta? Chi sei, fragola in fiore, liquore nella mia bocca, immerso dentro a questo bicchiere il tuo amore? Chi sei, piccolo fiore? Chi sei? Ci ha unito per sempre il dolore e ora viaggio con te in una nuova era. Leggende metropolitane corrono, leggende sfondano tabù, leggende muoiono e nascono, leggende viaggiano a riesono, leggende metropolitane nascoste nelle loro tane, sognano furtive e affidano le zanne per il nuovo pane. Leggende sognano glorie, forse per i più incomprensibili. Leggende come sogni possibili, come sogni. Ora libero, ora magari ti penso, ora in vero sei libera, mentre la mia mano prova a prenderti, ma lasciandoti cerca la tua immagine. Chiudo gli occhi e rivedo, ho fumato un lutto di gloria e rancore, e tutto più brutto e grande suonava il mio dolore. Ora che non t'amo, se non col cuore di ieri, quello di oggi litiga con quell'altro. Due persone, una delle due è da dimenticare. Ora trasformare, fondere per trovare ere nuove di un nuovo pensiero. Ma ora parte il nostro veliero. Chi sei, amore? Ho fumato un lutto di gloria e rancore, e tutto più brutto e grande suonava il mio dolore. Ora libero, ora magari ti penso, ora in vero sei libera, mentre la mia mano prova a prenderti, ma lasciandoti cerca la tua immagine. Chiudo gli occhi e rivedo. Dio noi nascono, leggende viaggiano all'indietro, leggende metropolitane, nascoste nelle loro tane, sognano furtive e affidano le zanne per il nuovo pane. Leggende sognano glorie, forse per i più incomprensibili. Leggende come sogni impossibili, come sogni impossibili. Fai piccola bambina dagli occhi lucenti, il re ti festeggia, guarda il suo talamo. Dove vai, piccola bambi, il cacciatore ti preda, lontano, lontano. Dove è il tuo cuore, piccola bambi, il cacciatore